Venerdì 28 settembre, una notte a tu per tu con la scienza, l'innovazione e i migliori cervelli italiani per raccontare e conoscere il mondo della ricerca. La notte dei ricercatori prende voce su Radio 24 con una puntata speciale con Federico Taddia in diretta da Trieste Next, il Salone Europeo dell'Innovazione e della Ricerca Scientifica. Storie, testimonianze, numeri, opinioni e collegamenti da tutte le università italiane che hanno aperto le loro porte al pubblico per mettere in mostra il sapere. La notte dei ricercatori, venerdì 28 settembre dalle 21 alle 23 su Radio 24.